Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Patrice Evra, so I mean he doesn't need much of an introduction. We did get Alvaro Morata from Real Madrid, whom we think is going to be an extremely interesting talent, 21-year-old and very good prospect. We got Roberto Pereira, who is again a very good midfielder. I think we have a team that can easily be placed amongst the top eight of Europe. We are looking forward to the challenge. We want to reconfirm ourselves in Italy and we want to be as good as possible in Europe because that's where we belong. Running the elections of the new federal football federation chairman following the resignation following Brazil, and at the moment we have one candidate which talks about players eating bananas rather than putting through a proper plan to relaunch Italian football. So I think there is a lot of activities to be done. We shouldn't be looking back at what has happened, but we should be looking at what we can build going forward. Così la Juventus è sbarcata a casa di Toira, abbiamo sentito i cori con questa accolta, abbiamo sentito in perfetto inglese Andrea Agnelli, nella prima dichiarazione ha fatto, avete sentito l'elenco dei giocatori che la Juventus ha acquistato, dicendo puntiamo a rivincere il campionato e l'Europa è la nostra casa, siamo da prime otto, nel secondo avrete capito bene una parola, bananas, perché è internazionale, no? Si parlava della elezione del chairman, del presidente della Federcalcio, nel momento abbiamo in Italia uno che parla di solo di banane. Giorni, questo è il primo giorno della Juventus a Giacarta, a casa di Toir, domani gioca contro Del Piero questa amichevole, ma normale, vita normale per i grandi club o presunti tali, quella di andare in giro per il mondo d'estate a rastrellare grano, che ne dica Van Gaal è quanto ed è quello che i grandi club devono fare. Finalmente ritrovo dopo lungo tempo, un tempo che a me è sembrato parecchio lungo, il mio amico Andrea Sorrentino da Repubblica. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno, ben trovato. Non qui... è stato lunghissimo, dai. A me è sembrato un'eternità, guarda, dichiarazione d'amore in piena regola. Grazie. 800240024, il vostro numero verde, no. Se anche a voi è mancato Sorrentino, dimmi. Mi chiedevo cosa hanno pensato i poveri indonesiani quando Agnelli si è uscito con la storia delle banane, non hanno capito nulla ovviamente, perché come fanno? Non hanno capito nulla. Non credo che sia arrivata fino a lì la cosa delle banane di Tavecchio. Ma tu dici, beh, comunque questa intervista ovviamente concessa a Bloomberg, magari a Bloomberg qualcosa ne... magari lì qualcosa ne sanno di banane di intorno. Sì, a proposito, ti tocca al sondaggione, chi tra una settimana esatta, oggi è martedì, chi tra una settimana esatta, il prossimo martedì, starà piazzando le foto di famiglia e le piante di ficus nell'ufficio del presidente federale? Credo nessuno dei due candidati, ma il commissario che ne scaturirà da questa storia, perché mi sembra che l'orientamento espresso anche oggi da Malagò con un'intervista a Repubblica proprio sia quello. Me la riassumi, capire... per favore? Te la riassumo. Tavecchio, insomma, è un candidato debole. E quindi noi del CONI preferiamo il commissario. Sì. E dato che di solito il CONI su queste cose ha una certa voce in capitolo, la sensazione è che si stiano muovendo le cose affinché il presidente federale non sia né Tavecchio né Albertini, anche perché entrambi poi sono espressione di due diversi gruppi di potere. Sì. E probabilmente sarà un commissario. Del resto la Federcalcio è stata commissariata altre volte nella storia, anche recentissime, insomma Guido Rossi nel 2006, ci fu Petrucci nel 2000 come commissario straordinario, ci fu un commissario nel 58 dopo la famosa eliminazione dai mondiali del 58, appunto, insomma, non è una cosa, non sarebbe una cosa strana, e secondo me sarebbe anche la più, la più logica. Quindi a questo sostanzialmente punto. Nell'incontro dell'altro giorno, adesso ricostruendo tutto, Malagò avrà detto a Travecchio: senti, ma perché non ti fai da parte? Ha detto: no, ma io vado avanti per la mia strada, e allora se così stanno le cose, vabbè, allora intervengo io. Questo è il senso. Ma sei d'accordo con Petrucci quando dice che non può che essere presidente del CONI il commissario della più importante federazione sportiva italiana? Sì, ma lì Petrucci è un furbone, cerca di stanare Malagò, che è il suo successore, insomma gli ha fatto un dispettuccio secondo me, perché sa benissimo che Malagò tutto vuole fare fuorché il commissario della Federcalcio, che sarebbe una grana enorme per lui, che non mi sembra che poi voglia essere molto diciamo così presente in certe cose. Mi sembra un presidente federale del CONI più che altro un po' defilato, molto politico, che non ama esporsi tantissimo, quindi io credo che lui stia pensando, e lo dice anche nell'intervista di oggi, stia pensando ad una squadra che possa fare da, che possa costituire un board dirigenziale per il commissario della prossima Federcalcio. Ecco. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, quello è un altro problema. Perché tutto questo, anche qui, chi voti? Chi è il tuo candidato? A me sembra che tutto porti a Conte, perché il suo divorzio stranissimo dalla Juventus mi ha fatto subito pensare quello, anche perché in un mese cos'era cambiato, in un mese e mezzo, da maggio, quando Conte aveva ritrovato l'accordo con la Juve, a quando di nuovo le cose si sono intorbidate, cosa è cambiato di fondo nel calcio italiano? Magari aver bruciato la candidatura di Conte per il Milan, magari sono un po' troppo malizioso, un po' troppo in retropensieri, no. O forse sono stanco perché è agosto inoltrato, però magari hai bruciato la candidatura. Conte magari stava parlando con il Milan, immagino, sto andando di fantasia, magari stava parlando con il Milan, magari la Juventus non gradiva, magari si sono rimessi d'accordo. No, esatto, quello è verissimo, Conte col Milan erano vicini. Appunto, poi si è capito che non si poteva andare avanti, ma non sono così convinto che Conte abbia già dei piani sulla nazionale, abbia già degli accordi. D'altra parte, con chi? Cioè, in questa situazione mi sembra anche difficile trovare un interlocutore. Col commissario, commissario Basettoni. No, comunque tutta questa storia della Federcalcio, ovviamente quello che interessa è l'allenatore della nazionale, perché il presidente della Federcalcio, io ti chiedo, tu sei un giornalista informato, brillante, che conduce una trasmissione importante da anni, tu sai dirmi chi è il presidente della Federcalcio tedesca, campione del mondo? No, non lo sai tu come non lo sa nessuno, è un tale che si chiama Nisbach, ma chi è il presidente della Federcalcio brasiliana, chi è il presidente della Federcalcio spagnola? Non lo sa nessuno, sono figure, diciamo così, simboliche, ma che non hanno responsabilità dirette. Beh, ma sai, ma in questo momento è strettamente monitorata la Federcalcio italiana, vuoi per il fallimento, che insomma è un po' come se fosse il presidente del Club Italia, e quindi in questo momento tutti chiedono moltissimo a questo. C'è un altro caro amico, di cui non ti faccio nome, mi manda un messaggio dall'Asia dicendo che di banane si parla ovunque, ci sta ascoltando da laggiù e di banane si parla ovunque, caro Andrea, anche a casa di Toir. A proposito, tu che conosci bene l'ambiente dell'Inter, molto bene l'ambiente dell'Inter, che idea ti sei fatto sul silenzio dell'Inter su questo argomento? Beh, ma l'Inter appoggia la candidatura di Tavecchio e quindi non ha nulla da dire in questo momento, devo dire che a Torino non è stato chiesto nulla in merito nelle ultime settimane. Poi l'Inter è stata in America per una decina di giorni, quindi un po' lontano dagli occhi e dal cuore, e quindi ha mantenuto un profilo basso. Però l'Inter appoggia la candidatura di Tavecchio, non fosse altro perché la Juve non lo appoggia in nome di un'antica inimicizia, giustamente. Senti Andrea, ti chiedo un attimo di pazienza, perché anche il 4 agosto, oggi 5, abbiamo il traffico per quelli che sono in vacanza, beati loro, poi torniamo subito dopo l'appuntamento con le informazioni per chi viaggia. 800 24 00 24 è il numero verde. I think the last time you won the Champions League was 2006. What's it going to take for you guys to win it again? Yeah, unfortunately it was a little bit before that, it was 1996. Tutti convocati. Andrea Sorrentino, tra poco ti chiederò di spiegare quanto è scritto oggi su Repubblica. Galileo, Guardiola e la biura tattica, sono difensivista, io odio il tiki-taka. Qualcuno potrebbe pensare che è uno scherzo, invece non lo è. Però prima, visto che eravamo in argomento Inter, silenzio da un lato, però si gioca, e non male, all'inizio di questa stagione, e con questo mercato da tutti definito a low cost, impatto zero, come ti pare. Intanto oggi ieri è arrivato Osvaldo e oggi è arrivato Medel. Mi sembra che a piccoli passi stiano creando, diciamo, una squadra interessante, stiano cercando di sistemare i punti deboli, e il punto debole principale dell'Inter era senz'altro il centrocampo, il dinamismo a centrocampo, e credo che con Medel abbiano dato un grosso scossone, perché mi sembra un giocatore di valore, almeno per quello che abbiamo visto ai mondiali. Mvilà è un po' una scommessa, ma è uno delle sicure qualità, se solo decide di tornare a fare il calciatore professionista, perché per un paio d'anni lo ha dimenticato. Un attacco con Osvaldo, Palacio, Icardi, secondo me, sempre che Osvaldo, ecco, sempre che Osvaldo decida anche lui di rimettersi in sesto, non è affatto male. Vidic in difesa è abbastanza una garanzia, quindi è una squadra che lentamente si sta ricostruendo, ma soprattutto quello che mi dicono tutti è un Inter completamente nuova nello spirito e negli uomini e anche nei dirigenti. Non dobbiamo trascurare questo particolare. L'Inter che vedremo quest'anno sarà completamente diversa dall'ultima Inter, perché sono cambiati moltissimi dirigenti, non c'è più Moratti, non ci sono più gli uomini di Moratti, non ci sono più i giocatori di Moratti, non ci sono più gli argentini, infatti, certo, non c'è più quel nucleo storico. È davvero una squadra di Mazzarri questo, qualcuno l'ha definita una provincia, una grande provinciale, o una, insomma, un, in questo modo, cioè sarà una provinciale di lusso, esatto, in questo modo è l'idea che ci siamo fatti è questa qui. A proposito, vi faccio sentire cosa ha detto Osvaldo. Gli hanno chiesto, è arrivato e gli ha detto: ma tu sei l'uomo giusto per l'Inter? Vuoi dire qualcosa a chi dice che non sei la persona giusta per questa squadra? No, aspettiamo, tanto io non sono mai la persona giusta per nessuno. Credi nello scudetto? Certo. Io non sono mai la persona giusta per nessuno. Senti. Ecco, ma chissà, forse si riferiva a questioni magari sentimentali, non so, o anche alle squadre, perché non è mai una bella frase da dire. No, chi è un po' da bello e dannato, come lui. Sì, poi, un po' da bello e dannato, poi bisogna chiedere a quelli del Southampton, quando sono arrivati qui con una valigia piena di soldi e l'hanno preso, se era una conoscenza di questo suo retropensiero. Ma mi spieghi Galileo Guardiola, sono difensivista e io odio il tiki-taka. Ma come? C'è un libro in uscita a settembre di un giornalista catalano che ha vissuto tutta la stagione scorsa a fianco del Bayern e di Guardiola, entrava nello spogliatoio, insomma, ha raccolto confidenze, aneddoti e tutto. È uscito fuori questo libro, questa biografia assolutamente autorizzata da Guardiola, in cui tra le varie cose che stanno emergendo dalle indiscrezioni c'è questa frase: odio il tiki-taka. E lui lo odia in quanto etichetta, marchio, cappio che gli è stato allacciato addosso. Lui adesso è l'uomo del tiki-taka, nel bene ma soprattutto nel male, visto che adesso il tiki-taka vive un periodaccio, quindi lui odia l'idea di essere accostato a questo modello di gioco, che in realtà per lui è soltanto un punto di partenza per lo sviluppo dell'azione, perché poi non è solo tiki-taka il suo gioco, dice, ma anche verticalizzazioni e gioco offensivo. Galileo è stata una perla dei nostri titolisti, perché ovviamente è una biura, no? Quella di Guardiola, come quella che fece Galileo, anche se quella di Galileo fu un po' più, diciamo, obbligata dagli eventi e dai signori dell'Inquisizione. Beh, in questo caso l'Inquisizione è Don Carletto Ancelotti, che gliene ha rifilati 4 e lui ha detto la partita con Real Madrid: la mia peggior cagata da allenatore. Anche questa è una frase che fa parte di questo libro, sì. Autocritica, e dice anche che per lui la base di ogni squadra è la difesa, e quindi dice: io sono un difensivista in quanto per costruire una squadra che sia in grado di attaccare è necessario renderla forte in difesa, ed è forse una verità pleonastica, perché qualsiasi squadra si costruisce dalla difesa, ma e in effetti se andiamo a guardare poi il Barcellona segnava tantissimo ma subiva anche pochissimi gol, quindi evidentemente era un equilibrio perfetto, ecco. No, ma certo, ma sai, è il vecchio concetto di Arrigo Sacchi, no? Finché la palla ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno gli altri. Lì teniamo, abbiamo la palla, stiamo in attacco, li teniamo lontani dalla porta. Poi il discrimine è molto sottile. Certo che io Guardiola a fare il mazzone, che pure è stato un suo maestro, non ce lo vedo poi tantissimo 800 24 00 24, il numero verde. Senti, abbiamo parlato dell'Inter, ma il Milan, impatto zero anche per il mercato del Milan, ma nel senso che la squadra di Inzaghi al momento non può correre con nessuno. Inzaghi l'ha detto. Allora, con Liverpool non possiamo misurarci, mentre attualmente l'Inter, la Roma, la Juventus sì, possono misurarsi con queste squadre. Quindi il Milan non può misurarsi con quelli da cui ha preso 10 gol segnandone soltanto uno nelle tre partite americane. Non c'è una bellissima aria intorno al Milan. No, ma anche perché è cambiato soltanto l'allenatore, no Carlo? Sì. Il resto sì, c'è qualche giocatore in più, però questa è una squadra che parte da un... Beh, c'è anche Kakà in meno volendo, eh? C'è anche Kakà in meno. C'è anche Kakà in meno, c'è Menezzi in più, che è un'incognita a vita, quindi sai, è una squadra che riparte dal basso, molto dal basso, con un allenatore esordiente, perché io penso che Inzaghi diventerà un ottimo allenatore, ma ancora non lo è a livello di Serie A, quindi anche lui porterà con sé delle incognite. Ha dietro ovviamente la struttura di Galliani che lo assiste e lo aiuta in ogni momento, però è comunque anche lui un allenatore emergente ed esordiente, non ha esperienza. Il Milan parte dal campionato dello scorso anno e quindi è una squadra in difficoltà, non hanno ovviamente le risorse per intervenire sul mercato, anzi le avranno solo se creeranno Balotelli probabilmente. Sì, che è infatti la mia idea è questa, guarda, più tardi abbiamo un appuntamento anche per parlare dopo la borsa di questi temi. La mia sensazione sul Milan rimane sempre quella, e cioè che ma come ha ripetuto mille volte Galliani, se si vende si compra, se non si vendono i giocatori è al Milan chi puoi vendere, se non un Balotelli peraltro deprezzato in questo momento, non sarebbe un grande affare secondo me quello di vendere. E poi l'unico altro giocatore da cui possono ricavare qualche denaro è De Sciglio, ma non mi sembra ci siano voci su di lui. Il resto, vabbè. Lo vorrebbe Carletto, sembrava. Certo. Lo vorrebbe Carletto al Real Madrid. De Sciglio del resto è un giocatore interessante, ma che pur essendo giovanissimo ha avuto dei problemi fisici incredibili per la sua età negli ultimi due anni. Quindi è probabile che ci siano delle incognite. No, il prezzo pregiato del mercato è Balotelli, e vedremo se riusciranno a rifilarlo a qualcuno, perché ormai credo che questo sia il verbo esatto. Noi abbiamo parlato molto durante i mondiali o dopo, ma insomma credo che la dimensione calcistica di Balotelli ormai si cominci a stagliare con una certa nettezza, no? In questo momento sì, è chiaro. Io direi che il talento gli rimane, ma forse è anche l'unica cosa che gli resta, quindi o riesce davvero a farlo fiorire, e quello ce l'ha, oppure credo che questa stagione possa essere l'ultima per lui da pseudo top player, da pseudo grande giocatore. Bisogna vedere in che squadra finisce. Secondo me quella in cui gioca adesso, almeno fino a gennaio. Se non riescono deve rimanere fino a gennaio, ma credo che lui voglia a tutti i costi andare via, il Milan lo vuole mandare via, quindi ci sono delle volontà coincidenti, e di solito quando è così poi il trasferimento si concretizza in qualche modo. Lui vuole tornare in Inghilterra, da dove era fuggito dicendo che non si trovava bene, adesso è diventata di nuovo la terra promessa, perché ovviamente cerca di riciclarsi lì, però al di là di tutte le sue intemperanze fuori dal campo, le sue follie, le sue mattane, il problema di Balotelli è in campo, Carlo. Cioè, certo, il Balotelli è dentro il campo, dove non è decisivo da tempo. Eccolo qui, chi sta parlando? Andrea Sorrentino sta parlando. Andrea Sorrentino, qui faccio sottopongo un'ultima considerazione. La Juventus a casa di Tohir, l'abbiamo detto prima, domani gioca contro Del Piero, che non ci pensa neanche a ritirarsi ad anni 39, lui è sul mercato, interessasse al Milan magari viene via con poco, se ne ha già parlato in passato. Tra l'altro, vabbè, lasciamo stare, Juve a casa di Tohir, Milan Inter e Roma in America. Van Gaal si è lamentato perché ha detto: no, io volevo stare a casa, far allenare il mio Manchester United, devono capire i miei concetti. Gli è stato risposto: senti, fai il bravo, perché poi quando viene a chiederci i giocatori noi quei quattrini ce li abbiamo bisogno. Questa è la normale vita di un grande club. Io non ci trovo niente di perverso peraltro in tutto questo. No, perché tra l'altro, Carlo, qualche anno fa noi criticavamo un po' tutti queste tournée all'estero delle squadre italiane perché interrompevano le preparazioni. In realtà poi abbiamo visto che le tournée in Asia o addirittura in Australia le fanno il Manchester United, il Real Madrid, e poi corrono sempre il triplo di noi, anche se vanno in Asia tutte le estati. Quindi probabilmente il problema non è lì. C'è però una questione economica basilare. Il calcio italiano si regge soltanto sui diritti televisivi, unico al mondo, infatti sta crollando. Per alzare il fatturato e i ricavi bisogna esplorare i nuovi mercati, che ormai non sono più neanche troppo nuovi, perché certo, li hanno già scoperti tutti, però è l'Asia il punto sì, focale, il no, nodo del mercato. No, poi quindi... vai a vedere che Inter Roma fa 12.000, l'ho detto ieri, fa 12.000 spettatori, e Real Madrid, Manchester United ne fa 109.000, sempre nello stesso grande paese che sono gli Stati Uniti. Poi oggi c'è, se volete dare un'occhiata ai prezzi, oggi la Gazzetta pubblica come fanno a fare business da quelle parti, perché nessuno è fesso nemmeno da quelle parti, e biglietti TV, cuscini e hot dog, così l'Europa trova l'America per vedere una partita di questo tipo. Tra una cosa e l'altra spende un mucchio di quattrini e tutti ci guadagnano. Grazie Andrea. A voi, a presto, buon lavoro. Un abbraccio, ciao. Grazie Andrea Sorrentino di Repubblica. 800 24 0024 è il numero verde. Roberto da Padova è il primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Volevo dire che te, Carlo, insieme all'altro socio Andrea, siete di Porta Rogna per il Milan. Te lo dico provocatoriamente, perché insomma è il Milan che prende Del Piero a basso costo, non abbiamo niente, dobbiamo vendere Balotelli, ma cioè, ascolta un po', il Milan fa quello che può e con i soldi che ci sono. Quindi? Poi la vera capacità è un Atletico Madrid, spendendo poco ha fatto grandissime cose, la Roma l'anno scorso ha speso in maniera intelligente, ha fatto solo campionato praticamente e ha fatto quello che ha fatto, ma prende anche dei gol. Secondo me non dobbiamo vendere nessuno, dobbiamo tenere assolutamente Balotelli e valorizzare quello che abbiamo quest'anno, prendendo, se usciamo, un centrocampista, ancora un uomo di fascia, visto che mi sta tirando via quella che avevamo sinistra, che è costante, quindi speriamo di prendere qualcuno un po' più bravo. Ma il figlio, perché dobbiamo svenderlo? Perché dobbiamo svendere in questo momento? Perché il campionato dobbiamo fare, teniamo quello che abbiamo. No, ma io sono. Io dicevo, mi limito a dire che. Mi limito a dire che gli unici due giocatori monetizzabili per il Milan sono De Sciglio e Balotelli. Non mi sembra di vedere molto altro valore in quella squadra. Dal punto di vista del mercato, dal punto di vista puramente commerciale, non vedo moltissimo nel Milan, quindi semplicemente questo, e non vedo neanche una grande squadra, non ci riesco, con tutto il bene che posso volere al Milan, non riesco a vedere una grande squadra, vedo una squadra che, come giustamente ha detto Inzaghi senza nascondersi, in questo momento non è competitiva, ma non è competitiva non solo con Liverpool, Manchester United, Real Madrid, neanche a parlarne, d'altra parte non ha bisogno di competere con queste nella stagione che verrà, dato che è fuori dall'Europa, ma non la vedo competitiva nemmeno per nulla, nemmeno sul fronte italiano. È vero, l'esempio sommo è quello dell'Atletico Madrid, caro Roberto, però basta guardare dall'altra parte del naviglio, mi sembra che l'Inter, spendendo non molto, stia facendo un mercato e costruendo una squadra più interessante di quanto non è il Milan attuale. Questo è il mio pensiero. 5 giocatori sono arrivati, sono giocatori certamente non fuori classe, funzionali a un progetto. La squadra è stata molto migliorata, è una faccia diversa rispetto a quella dell'anno scorso, e questo senza spendere un fiume di denaro. Tutti convocati. No, so we no party. Sì, ho imparato qualche cosina. Cose elementari. Pavi Gates. Toshize. Sì. troppo veloce, vai. Ho risposto bene, sì. Grazie. Beh, i nostri, le lingue straniere, tempo di viaggi. Pirlo prova a dire no, sanogono parti, non gli è riuscita benissimo nel primo frammento. Poi abbiamo un Immobile che ha imparato perfettamente il tedesco, Auffiedersen, gole, queste cose qui. E Totti dell'altro giorno gli hanno fatto questa lunga domanda in spagnolo e lui dice, boh, risposto bene, chi lo sa. No, intanto i nostri magari non sanno benissimo le lingue, in compenso purtroppo sanno beh, purtroppo, diciamo che purtroppo sono avvezzi a scrivere molto su Twitter. Le ultime le sapete anche voi, io credo, dalla fidanzatina di Dries Martens, Kat, che vive con lui a Napoli. Imperdibile il suo messaggio. Beh, città bellissima, peccato che puzzi, piena di rifiuti, poi c'è la camorra. Però, amiche mie, venite a trovarmi, qui, bello, si sta bene. A parte questo. E poi Nainggolan di nuovo, con la vicenda, ve la riassumo in un secondo. Foto della Roma a Filadelfia davanti al famoso monumento di Rocky Balboa. Boriello che twitta: Adriana! Un tifoso che risponde: a Rocky, perché non ti trovi una squadra così risparmiamo sul tuo ingaggio e prendiamo Eto'o che ci va a vincere qualcosa? Nainggolan è sceso in campo a difesa del suo compagno in maniera abbastanza violenta, diciamo così. Trascuriamo l'ultimo tweet perché è censurabile, insomma, fascia protetta e tutto quanto. Potessero star fermi un po' con quelle mani, con quelle ditine, sti giocatori. Alla Roma intanto, ma giustamente, mi sembra una splendida idea, allo studio un codice interno e corsi di social network. 800 24 00 24, numero verde. Potessero fare scrivere anche Balotelli, sarebbe meglio. Claudio Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno gente. Senta, niente, mi sono rivolto a voi, Radio 24, che l'economia ve ne intendete, ma non capisco perché Balotelli è un pezzo pregiato per il Milan, visto che quando è arrivato al Milan fu sbandierato da tutti, un grande affare di Galliani, lo pagherà in 4 anni. Mi pare che non siano passati, il prezzo di Balotelli si è deprezzato, non capisco cosa possa recuperare il Milan, a meno che non gli abbuonino, cioè Galliani può permettersi di comprare qualcosa a rate e poi non finire di pagarla, no? Il perché di questa Beh, perché Claudio, perché Balotelli è il giocatore in questo momento che ha non un grande mercato, e questo lo sappiamo tutti, ma che è l'unico monetizzabile. Vale comunque meno di quello che l'ha pagato. Sì, sì, sì. Beh, ma d'altra parte, certo, il Milan, la richiesta del Milan è sui 25 milioni. Pare che sì, ci sono state delle proposte, ma poi sono state smentite. Ad esempio, l'ultima, quella del Liverpool, si parlava di un'offerta di 18. È chiaro che a quelle condizioni al Milan non conviene venderlo, ma in valore assoluto secondo me sarebbe un pessimo affare dal punto di vista strettamente economico in questo momento vendere Balotelli, perché che fai? Hai in mente di venderlo, hai intenzione di venderlo, lo fai giocare naturalmente, speri che faccia una buona mezza stagione e a gennaio ne riparliamo. Quindi questa può essere la strategia. C'è qualcuno che via SMS mi scrive 349-238-6666, Sharawi dove lo metti? Lo metto nel posto in cui stanno i giocatori fermi da un anno, quindi il Sharawi, quello che era ormai 2 stagioni fa in quella meravigliosa prima metà di stagione, vabbè, ma stiamo parlando di un sacco di tempo fa. Per il resto, Esharawi l'ultima stagione l'ha trascorsa da infortunato, e non dimentichiamo che dopo quella meravigliosa prima metà di stagione, quando tutti dicevamo: ah, abbiamo trovato le due punte della nazionale dei prossimi 10 anni, Balotelli ed Esharawi, perché questo l'abbiamo detto un po' tutti, 800 24 00 24, dopo quell'eccellente mezza stagione, complice un sacco di infortuni, anche Sharawi è sparito dai radar. Quindi è chiaro che in questo momento non conviene al Milan, non converrebbe al Milan mettere sul mercato il Sharawi. La strategia che deve fare il Milan è far giocare questi giocatori e vedere che succede da qui al mercato di gennaio. Quindi questo è ciò che penso. Poi mi sembra nella logica dei fatti dire che i giocatori che possono avere il migliore mercato possibile dal punto di vista del Milan sono soltanto 2, Balotelli e De Sciglio. Mi sembra che sia una cosa straordinaria questa. Antonio Treviso, buongiorno. Buongiorno, che trasmissione è questa? Si ricorda? Ce l'ho ancora, adesso lo ripetiamo. La trasmissione è questa? Bella quella, È bellissima. Cioè no, ma adesso, adesso lo ripesco, mitico ascoltatore. No, 2 cose. Sì. C'è in ballo questa vendita di De Sciglio, c'è la trattativa con Balotelli, oppure non c'è, però se le vogliono liberare. Sembra che il Milan sia la frutta per via di soldi, non occorrerebbe al signor Berlusconi di trovare un acquirente come ha fatto Moratti, come ha fatto gli ex presidenti della Roma, cioè, beh, ormai, sì, lo so, a questo punto, come ha fatto Garrone, Garrone no, non più tardi due mesi fa. Mi scusi signor Carlo, ma la Todea insegna che tutte le squadre italiane quando hanno vinto qualcosa di importante, sotto c'era un lavoro di giovani, e i Milan di Maldini, di Baresi, le Juve di Cabrini, cioè adesso non esiste più, si vanno a comprare questi giocatori a parametri zero, tipo non so neanche se sia arrivato a parametro zero, spero di sì, Alex. Sì, parametro zero, nettamente parametro zero, non mi parli anche lei di Optipo Ba però. Che programma è questo? Eccolo qua. Secondo me anche Alex, cioè era meglio che si tenevano Yepes, che tra l'altro sta facendo, cioè non riesco a capire queste strategie di mercato, secondo me non sono la frutta proprio. Guardi, allora sul primo punto, questione capitolo vendita della società, come lei sa se ne è parlato un sacco di volte, sono anni che se ne parla puntualmente, ogni tanto esce questa voce e il Milan tratta con gli arabi, il Milan tratta con Flemmi Reis o con qualche russo, complici agli affari del suo presidente. Poi puntualmente arriva la solita smentita che è nel cassetto alla Finimes da qualche parte, in qualche computer, fanno copia e incolla e smentiscono queste voci. Quindi al momento non risulta. Poi il Milan sono anni che sta facendo questo tipo di politica. È un tipo di politica per cui vengono presi giocatori anche di buon nome da mettere in vetrina, perché Alex comunque ha un discreto passato, il ritorno di Kakà si collocava in questa prospettiva, ma sono tutti giocatori dall'ingaggio molto pesante. Chiedere a tutti quelli che in questo momento, l'ho detto nei giorni scorsi, stanno provando a vendere Robinho, perché a regalare via Robinho, che qualcuno gli paghi lo stipendio, però Robinho al Milan chiama 4 milioni, 4 milioni e mezzo, e non è facilissimo, voi capirete bene, trovare qualcuno che lo prende anche gratis e poi gli dà quel tipo di stipendio. Quindi il Milan dal punto di vista del monte ingaggi è, ora non ricordo gli ultimi dati, però è insieme alla Juventus la squadra più costosa che c'è nel nostro campionato. Sergio Padova, buongiorno. Buongiorno, sono da Padova. Senta, posso farle sentire che cosa ha detto Rafa Benitez a proposito di banane e dintorni? Va bene. Sì, grazie. Eccolo qua. Tavecchio, il candidato alla Federcalcio, volevo una sua opinione su quello che ha detto. Con la preoccupazione che io ho del mercato, te devo dire che non ho pensato niente di che cosa ha detto, che cosa vuole dire, che cosa vanno a fare. Per me la chiave è migliorare questa squadra. Adesso sono sicuro che qualche allenatore che va a giocare una partita contro il Barcellona penserà: attenti che arriva Iniesta, ma non che arriva Tavecchio. Hai capito? Tavecchio non gliene può importare di meno al professor Benitez, però nel calcio che avrà un governatore dovrà muoversi anche il Napoli di Benitez, quindi non è esattamente una questione campata per aria. A lui interessa il mercato. L'altro giorno ha detto che gli piace Mascherano, però gli piace anche Kim Basinger, tant'è, sta aspettando Fellaini, vediamo che succede da quelle parti. Sergio? Sì, Benitez se la cava con in forma ironica, non è male. Io però volevo prendere una posizione proprio in merito a Tavecchio. Di solito le battute così dette a braccio nei discorsi, dal popolo bue viene preso purtroppo bevono, ecco, il popolo bue lo beve, invece i media valutano. In questo caso mi sembra che il cosiddetto il popolo bue, io mi metto tra questi, ha capito che Tavecchio ha sbagliato nella forma. E se invece di usare un'espressione purtroppo negativa in questo periodo, appunto, e usare le banane, invece di dire un giocatore è venuto mangiando le banane, avesse detto, non so, un giocatore di merda, per sì, dire, sì, in Italia sì, avrebbe sì, un sorriso e non sarebbe cambiato niente. Invece per me sono i giornalisti, i media, che approfittano di questo periodo che non c'è molto da beh, parlare. Ma no, ma non ci sarà anche molto da parlare, però insomma non è una differenza da poco, Sergio, perché non è un banane o merda quello che vuole detto tra me e lei, anche pubblicamente come in questo contesto, che pure ha un peso, oppure al bar, la discussione tra amici, insomma. È chiaro che sono espressioni che non vanno bene, sì, ma un conto è dirle, ripeto, al bar o magari per radio, un altro conto è dirle in un contesto pubblico, davanti alle telecamere, da un palco e nel corso di una campagna elettorale per una carica importante. Quindi con una frase posso finire? Sì. Se bisogna guardare e valutare il Tavecchio, credo si debba valutare più quello che ha fatto sui programmi più che su queste forme, altrimenti ecco, io prendo i giornalisti e chiudo dicendo che questi sono, non tutti, una gran parte, sono i giornalisti delle banane, e se c'è qualcuno che si offende posso dire che sono i giornalisti di merda. Grazie. Molto gentile, grazie Sergio. Vabbè, meglio il traffico, cosa dite? Ti voglio solo dire che tra Piero e Cormano, avendo questa voce robotica, c'è la coda perché sta guidando Raikkonen, Questo è giusto che lo sappiate. Tutti convocati. Dario, sei stato tante volte vicino all'Inter, questa volta c'è davvero. Sì, spero ora andare a fare le visite mediche e poi prima di firmare non voglio dire nulla per scaramanzia. Hai sentito Mazzarri? Daniel, scudetto Champions. Speriamo tutto quello che si può fare. Vero che hai detto di no, un'altra squadra per l'Inter? Mi ha chiamato l'Inter e non ho dubitato. Hai sentito Mazzarri, cosa ti ha detto? Sì, ci siamo sentiti, niente, che dovevamo parlare personalmente, ma niente, ha detto che era contento. Dani, tridente pesante, Palacio, Icardi, Osvaldo, sei pronto? Cosa senti dire ai tifosi con questo tridente? No, speriamo di fare bene tutti quanti per il bene dell'Inter. Nazionale obiettivo? Sì, numero uno, sempre. Pablo, numero uno! Vabbè, nel contesto scudetto Champions non l'ho capita però, perché mi sembra che... Insomma, l'Inter quest'anno la Champions non la giochi, magari è una domanda proiettata su un futuro abbastanza lontano, so, mi pare così. Lui tanto nella foga ha risposto: no, voglio vincere tutto, nazionale, tutto, voglio tutto, voglio il mondo, I want it all and I want it now, direbbe Freddie Mercury. Già che ci siamo, io tornerei su Benitez per... visto che c'è Fabio da Napoli in linea, 800 24 00 24, magari gli fa piacere sentire invece Benitez cosa ha detto sul sogno al momento proibito dei tifosi napoletani che si chiama Fellaini. Non ce l'abbiamo Benitez? Sì che ce l'hai, Benitez su Fellaini, caro Fabio Cantadori, in regia ce l'hai, dove Benitez dice: dipende da loro. Vabbè, Fabio, glielo faccio sentire tra un attimo, 800 24 00 24 è il numero verde. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, dimmi. Ciao, grazie per avermi dato ospitalità. No, siamo da Napoli, sono napoletano e volevo intervenire sulle dichiarazioni del Mercato. Scusami, c'è stato un problema di linea. Dichiarazioni di? Della finanza. Di Martens. In merito alla visibilità della mia città. Lei in parte è testimone, quindi dice il vero, insomma. Ma non me la prenderei piuttosto con la politica, che da tanti anni ha abbandonato non soltanto il meridione d'Italia, insomma, ma si è proprio dimenticato dei problemi che da Ostacca di Cresta, piuttosto del paese. Quindi attaccare tra virgolette, nel senso criticare una persona, un turista, insomma, anche se una... Sì, però ogni volta vengono fuori queste storie, cioè Fabio, non lo so, mi sembra un discorso strano, no? Tu da napoletano dici: ma in fondo questa ragazza che dice per i napoletani è normale, la camorra è normale per i napoletani, da turisti invece non ve ne accorgete neppure. Se ti smetti alle spalle il caos e l'odore di immondizia, potrai passare dei fantastici momenti. Possiamo andarci tu, vero? Sì, come no, possiamo andarci tu, altro che. Allora, guarda, se il tema può essere insomma di interesse per te e per i tuoi radioascoltatori. Allora, per quanto riguarda la questione dell'immondizia, perché. Faccio fatica, Fabio, però faccio davvero fatica ad ascoltarti. Semmai proviamo a rimetterci in contatto, perché insomma, non si stava parlando di sciocchezze, ma di cose un pelo più serie, quindi è meglio capirsi per bene. Saluto e ringrazio Carlo Laudisa. Buongiorno Carlo. Ciao a tutti. Visto che stavamo parlando di Napoli e dintorni, ma Fellaini oggi ne hai scritto sulla Gazzetta. Sì. Ho dato un aggiornamento su quella che è. Che dici? Un filone. Si fa? Ma sì, gli indizi fanno credere che sia una cosa seria. Poi da qui a due settimane può cambiare tutto, però non sembra una pista così avventurosa, anche se i termini economici della vicenda sono ancora troppo importanti per darlo già per fatto. Sì. Ma speriamo, almeno sarebbe un personaggio che arriva in Italia. L'anno scorso arrivavano Tevez, Higuain, Mario Gomez, ci eravamo un po' illusi, no? Avevamo un po' rialzato la cresta. Quest'anno insomma siamo qui a contare i giocatori che si muovono sul fronte interno, ma davvero poca roba. Sì, l'Inter comunque qualcosina ha fatto, perché sì, nel caso del rientro di Osvaldo, l'acquisto di Medel in questo momento, un bilancio che può essere una scommessa, ma certamente ha dei requisiti significativi uniti a quello di Dodò. Insomma, l'Inter ha fatto abbastanza. È un mercato secondario. Secondario, ma comunque di Inter e Roma, l'Oscar di metà mercato, professore. Sì. Roma, Inter, direi anche la Lazio. Anche secondo me. Ha fatto delle operazioni comunque in parte collaudate, in parte di prospettiva, per dire, De Vrij preso per 8 milioni a 21 anni, un'operazione significativa, forse presa proprio con questo tipo di chiave di lettura, è l'unica operazione importante di questo mercato, no? Sì. No, poi la Lazio ha preso anche Parolo, che è comunque un giocatore della nazionale, sì. Quindi sì, sono d'accordo. Dico come rapportato le dice. Poi chiaramente il top è quello della Roma con i Turbe, che ha 21 anni, quasi 30 milioni, sono tanti, e essendo un mercato interno passa un po' in secondo piano, però non è un caso che sia la Juve che il Milan ci avessero fatto un pensierino. Certo, ma senti, non si parla più di una punta per la Juventus, dopo l'infortunio di Morata erano usciti un sacco di nomi, e secondo me ti posso dire, e tu non sarebbe stata una pessima idea? Tu è ancora in attesa di contratto. L'altro giorno ho scritto di Lavezzi. Quella di Lavezzi è una vicenda che dopo Ferragosto capiremo se è alla portata o se invece rimane solo un sogno nel cassetto. Quindi aspettiamo serenamente dopo Ferragosto per capire quale fuoco si può accendere per davvero. Ma per la Juventus, non per il Milan, Lavezzi, perché la mia sensazione sul Milan, correggimi se sbaglio, è che l'ho già detto molte volte prima, mi senti? No, sul Milan dicevo, Lavezzi, hai scritto l'altro giorno interesse di Milan e Juventus, sul Milan l'ho già detto prima, la sensazione è che ci debbano essere giocatori in uscita prima di vedere quelli in entrata. Caduta la linea con Carlo Laudisa. Maurizio Milano, buongiorno. Caduto chi? Tutte e due. Abbiamo ripescato invece Benitez su Fellaini. Cosa ha detto? Però potrebbe essere un giocatore giusto Fellaini, insomma, per il suo progetto di Napoli. Io credo che tutti questi nomi, ho detto tante volte 10%, sono vero. In questo caso non è un nostro giocatore, è un giocatore del Manchester United. Dipende da loro, non dipende da noi. E dipende da loro, non dipende da noi. Fellaini è comunque un giocatore importante, e mi fido di Laudisa quando dice che per l'appunto la pista è calda. E d'altra parte, insomma, tra l'altro, intorno a Napoli c'erano stati anche brutti episodi, secondo me. Quella contestazione a mio parere inspiegabile da parte di una parte della tifoseria più calda del Napoli contro De Laurentiis. Allora, o vinci o vendi la squadra, e è il momento di vincere, ma con toni anche molto duri che sono difficili da condividere. Napoli comunque è un progetto che secondo me è tra i meglio riusciti del calcio italiano. Napoli e Roma sono i due progetti meglio riusciti del calcio italiano. Mi interessa molto e mi intriga molto quello dell'Inter, perché l'Inter sta facendo davvero qualcosa di nuovo rispetto agli ultimi 18 anni, quando c'era Moratti che si invaghiva di questo o quel giocatore, metteva mano al portafoglio, e che fosse o meno funzionale a un certo progetto se lo andava a prendere da solo. Adesso è un Inter molto interessante, proprio perché si seguono linee diverse. Sempre a proposito di Inter, c'è Mazzarri che ha parlato in aeroporto. Cosa ha detto tornando dall'America? Sentiamo questa battuta. Grande Inter. Bene, sì, bene. Per ora bene. Già da scudetto. No, lasciamo perdere questi discorsi. Già da scudetto, magari da Champions League, come è stato chiesto prima a Osvaldo, scudetto o Champions? Ah no, tutte e due. Ma come? Champions varie ed eventuale, vedremo in futuro. Giorgio da Firenze che scrive: la politica di Galliani, parametro zero, porta a lungo andare a un monte ingaggi insostenibile, e questo è vero. Però c'è anche l'esempio dell'Inter. L'Inter ha preso dei giocatori che certamente non sono nemmeno delle ex superstar come il Milan aveva ingaggiato di recente, non hanno un passato straordinario, non sono costati una fortuna, ma sono semplicemente funzionali a quello che si sta costruendo. Tra l'altro, ripeto, è arrivato anche Medel, è già arrivato a Milano e oggi farà le visite mediche ed è di fatto un nuovo giocatore dell'Inter. Sempre sul fronte Inter c'è la voce di Jonathan su Osvaldo. Come sarà giocare con Osvaldo? Speriamo bene. Grazie. Un grandissimo calciatore, un bello acquisito dell'Inter. Adesso iniziamo l'allenamento con lui per conoscere ancora meglio. È un Inter da Champions League, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sempre il migliore possibile. Presto ancora per dire qualcosa sul obiettivo, ma sicuramente dobbiamo portare l'Inter al più alto posto possibile, che è la Champions League, e litigare anche per il scudetto. Tornate fiduciosi però da questa tournée. Sì, sempre fiduciosi. Sempre fiduciosi, e questo è Jonathan. Intanto vi ho detto in apertura, ci ho scherzato sopra, qualcuno ho sentito si è anche offeso, non vedo perché. Dicevo, ma no, ma è reale, cioè non solo Eto'o, che ripeto, secondo me potrebbe essere un'idea interessante se la Juventus avesse bisogno di una punta, perché se parti con, mettiamo, Llorente e Tevez titolari dall'anno scorso, avere in attesa della guarigione degli altri, avere un Eto'o pronto a subentrare, ma anche in prospettiva Champions League, fosse Juventina, ma schifo non farebbe. Comunque, sul mercato degli svincolati, l'ho detto prima, c'è anche Alessandro Del Piero, anni 39, ha detto di smettere di giocare, non ci penso nemmeno, e ritroverà per la prima volta da quando è andato via, domani, sebbene in questa amichevole piena di lustrini a Giacarta contro Juventus, contro una rappresentativa del calcio di laggiù, del calcio dell'altro mondo, ci sarà anche Alessandro Del Piero contro la sua Juventus, e Del Piero dice questo. It will be for sure exciting stay face to face to my former team, and it will be great. I don't know what can happen, but because it's a very unique situation. If I score, yeah. I don't know. You have to come to the game for see what happened. But I don't know, honestly. But it's a friendly game, and I put all my heart when I play. Doesn't matter on which side. This is for the All Star of Australia. That's it. E dunque anche per Del Piero, eccellente inglese, quello l'ha imparato perfettamente. All Star australiano, come sapete, non ha più un contratto, ma ha detto di smettere di giocare. Nemmeno ci penso. Beh, ripeto, per il Milan potrebbe essere anche un'idea, perché no? Cioè, potrebbe essere all'insegna di, della politica che si è fatta negli ultimi anni. Lo trovate offensivo questo? Ma magari torniamo a parlarne domani se ne avete voglia, intanto siamo in diretta con voi, 800 24 00 24, segnatevi il numero verde perché siamo qui ogni giorno. Grazie Fabio Cantadori in regia, Claudia Schiattone in redazione, ciao a tutti.